rassegna stampa Europa. Buongiorno, buon sabato, buona vigilia di Natale da Giulia Crivelli. Benvenuti alla nostra rassegna stampa europea, che è quella della vigilia di Natale. Non faremo una rassegna stampa natalizia, la faremo come sempre guardando a ciò che i giornali europei hanno scritto di questioni europee nella scorsa settimana. E tra l'altro vi ricordo che se volete anche mandarmi un messaggio su Twitter, il mio account è molto semplice, Giulia_Crivelli. E cominciamo dall'Independent, che è un quotidiano del Regno Unito, e ha pubblicato un breve editoriale molto significativo intitolato «Il Mediterraneo ci chiama». Il riferimento naturalmente è alla tragedia in corso nel Mediterraneo, che l'Independent definisce uno dei disastri umanitari più gravi a cui l'Occidente abbia assistito negli ultimi anni. Migliaia di persone sono annegate cercando disperatamente di raggiungere l'Europa, rischiando tutto ciò che avevano nel momento in cui erano più vulnerabili. Senza un tetto e spesso dopo aver perso tutta la famiglia lungo il viaggio, quelli che sono arrivati in Europa hanno trovato un continente spaccato e spesso ostile nei confronti di chi lo riteneva una terra promessa. Continua facendo anche i casi, differenziando anche dalle diverse modalità di accoglienza o non accoglienza. Per esempio scrive nell'ultima parte l'editorialista: nel Regno Unito la pressione dell'opinione pubblica nei confronti del governo affinché risolva la crisi dei profughi ha avuto alti e bassi. Dopo il voto sulla Brexit l'atteggiamento nei confronti dell'immigrazione si è indurito. Reagire a questa ostilità chiudendo le rotte percorse dai migranti è una risposta troppo semplicistica. È il momento di mostrare una leadership morale e pratica. Nei prossimi mesi migliaia di persone rischieranno la morte per annegamento o ipotermia. I politici europei hanno l'obbligo e il dovere di agire al più presto, per quanto complesso possa essere diventato il mondo in cui operano. E a proposito di mancanza di strategie, non ci sono solo quelle che riguardano l'immigrazione, la super complessa questione dell'immigrazione, non vogliamo a nostra volta semplificare, però è un fatto che non esiste di fatto una politica e che spesso si tratta di rimpalli di accuse tra i diversi paesi o tra i diversi paesi e Bruxelles. A proposito quindi di mancanza di strategie, il settimanale politico belga, e anche in questo caso dobbiamo la traduzione a internazionale, approfondisce la questione della mancanza di strategia nei confronti delle politiche economiche della Cina. Il titolo dell'articolo è «Pechino ha un piano, Bruxelles no». Gli investimenti cinesi seguono un disegno preciso, mentre gli europei non hanno un progetto per difendere i loro interessi. E vi leggo la prima parte. Nel conflitto tra Pechino, Berlino e Bruxelles, a proposito della vertiginosa crescita degli investimenti cinesi nelle industrie europee ad alta tecnologia, la Cina gode di un vantaggio considerevole, ha un piano, mentre la Germania e l'Unione Europea no. E vi leggo l'ultima parte. Almeno nella sua fase iniziale, Made in China 2025, che è un piano appunto della Cina, creerà enormi opportunità di investimento in Cina per le aziende straniere e in particolare europee in grado di fornire tecnologia all'avanguardia. Le aziende europee vogliono la loro parte di torta, ma non risparmiano le critiche al governo cinese, accusato di concedere un accesso ridotto agli investitori stranieri e di volerli escludere dal mercato in un secondo momento. Vedremo quindi perché. Appunto, a parte queste di nuovo reazioni un po' in ordine sparso, non esiste una strategia vera e propria dell'Unione Europea, della Commissione Europea, di Bruxelles nei confronti della Cina, che invece, avendo grande esperienza di piani quinquennali e anche più lunghi, una strategia, come scrive il settimanale belga, ce l'ha. A proposito di elezioni e anche delle vittorie o della crescita di partiti che hanno posizioni più o meno favorevoli all'Europa, più o meno favorevoli in particolare all'immigrazione, il settimanale Criticatac romeno ha dato conto, e anche qui poi è stato tradotto da internazionale, delle recenti elezioni, con un articolo intitolato «In Romania vince la delusione». Nonostante i recenti scandali, infatti, il Partito Socialdemocratico ha vinto le elezioni legislative di metà dicembre, approfittando della bassa affluenza e della debolezza degli avversari. Quindi anche in questo caso c'è una mancanza di leadership, la stessa che ci si lamenta manchi in tanti altri paesi europei, e che lascia anche così lo spazio per far crescere partiti populisti. Lo abbiamo visto in Austria, lo abbiamo visto in Francia naturalmente, con l'ascesa di Marine Le Pen e la sua candidatura sempre più apparentemente forte alle presidenziali francesi del 2017. Vi segnalo poi invece, per quanto riguarda noi, un articolo apparso sulla FAZ, la Frankfurt Allgemeine Zeitung, che spiega che gli economisti tedeschi sono contrari a larga maggioranza, cioè 61%, a un'ipotetica uscita dell'Italia dall'Eurozona, cosa di cui si parla anche perché sapete che per esempio la Lega non ha mai rinnegato di voler addirittura sottoporre a un referendum che poi sappiamo tecnicamente non può essere decisivo, quindi la Lega vorrebbe sottoporre a referendum la permanenza dell'Italia all'interno della zona euro, poi in realtà siccome è un trattato internazionale nazionale e i trattati internazionali non possono essere oggetto di referendum, è una proposta che poi, anche se si dovesse fare questo referendum, avrebbe così un valore formale, non sostanziale. In ogni caso, la Frankfurt Allgemeine Zeitung spiega che questo campione di economisti teme che un'uscita dell'Italia avrebbe un impatto negativo sulla stabilità di Eurolandia e il 23% ritiene addirittura che questo impatto sarebbe molto e negativo. Addirittura Niklas Potrafke, che è direttore del centro IFO, che è l'istituto di ricerca, uno degli istituti di ricerca economica tedeschi più importanti e si occupa di finanza pubblica e di economia politica, dice che l'uscita dell'Italia sarebbe l'inizio della fine dell'Eurozona. La questione chiave è la seguente: quali sarebbero le implicazioni per la stabilità dell'Unione Europea se l'Italia dovesse lasciare l'euro. E sempre invece a proposito di questioni italiane, la Westdeutsche Allgemeine Zeitung, un altro giornale meno importante, più locale della FAZ, si è occupata delle dichiarazioni fatte da Christoph Schmidt, che è il capo degli esperti economici della cancelliera Angela Merkel, che ha parlato del salvataggio di MPS. Tra l'altro sappiamo che è un salvataggio che sta prendendo forma. Ultime notizie sono proprio di questi giorni, ma è una questione che andrà ben oltre il Natale, anche perché non è chiaro quali saranno esattamente le modalità per i diversi, tutte le persone che hanno un interesse, che sono o semplici correntisti della banca, o hanno dei bond, o hanno delle azioni. In ogni caso già Christoph Schmidt aveva detto che non andrebbe bene un salvataggio pubblico che purtroppo, come sappiamo, si sta profilando. E addirittura Schmidt aveva detto: se l'Italia non rispetta le regole alla prima grande prova, appunto, di salvataggio di l'unione bancaria non è credibile, e vedremo come si evolverà questa questione. Naturalmente i giornali si sono anche occupati della vicenda delle nuove vicende di Roma, con l'arresto di Raffaele Marra e tutto quello di cui qui in Italia ci siamo occupati tantissimo, perché un po' il Movimento 5 Stelle veniva visto come sì un partito populista, però di stampo diverso, meno se vogliamo anche meno pericoloso di partiti come quello di estrema destra dell'Austria o della stesso Front National di Marine Le Pen. E però dall'altro canto si notava anche come fosse un caso eccezionale di crescita molto rapida di un movimento politico. E adesso però, alla prova dei fatti della gestione di una delle città, della capitale dell'Italia, ma anche di una delle città più famose del mondo, il Movimento 5 Stelle stia franando, e quindi un ragionamento appunto su quanto siano poi preparati a governare partiti che nascono e crescono e diventano molto forti perché sono sostanzialmente sempre all'opposizione. Naturalmente i giornali francesi si sono occupati moltissimo anche della vicenda Mediaset, Fininvest, Vivendi, con questo che viene chiamato la battaglia Berlusconi-Bolloré per il controllo di Mediaset. È una questione che potrebbe anche, come sapete, sconvolgere il panorama delle TLC europee, e quindi molto Le Figaro, che ha un supplemento di economia molto approfondito, se ne occupa e dice che anche qui bisognerà vedere, anche perché può essere un banco di prova sia per il nuovo governo italiano sia anche per le norme europee sulle TLC e su come all'interno dell'Unione Europea grandi gruppi varcano i confini per appunto fare terra di conquista di paesi della stessa Unione. Ultimissima segnalazione che vi volevo fare è da Euronews, che ha pubblicato un sondaggio di Eurobarometro, e incredibilmente, trovo che sia veramente una buona notizia, da questo sondaggio emerge che il sostegno all'euro all'interno dell'Unione Europea è leggermente aumentato, è al 58% rispetto al più 3% della scorsa primavera, quindi forse forse ragionandoci rendiamo tutti conto che non conviene a nessuno tornare indietro, abbandonare la strada della moneta unica, perché ha un significato che va oltre appunto avere tutti in tasca le stesse monete, le stesse banconote. Era l'ultima segnalazione per oggi, ancora una buona vigilia di Natale da Giulia Crivelli, un buon Natale perché domani non ci sentiremo, ci risentiremo invece il 26, non per una rassegna di quotidiani che non saranno in edicola, ma per una rassegna dei settimanali. Ancora un buon 24 dicembre. Rassegna stampa Europa. In collaborazione con Euronet Plus.